Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti, buon ponte dell'Immacolata per chi lo fa in molti, noi no, della radio, lo sapete bene perché ve lo stiamo rimarcando da giorni e giorni, ma ci è sembrato naturalmente utile continuare a presidiare anche l'evoluzione della discussione sulla manovra varata dal governo Monti domenica scorsa, e mentre molti di voi si stanno godendo al ponte, appunto noi continuiamo a seguire questa linea. Oggi ci dedichiamo a quella che è stata definita la mini patrimoniale, ovvero nella tassazione dei prodotti di investimento. Sono quindi interessati alla questione tanti italiani, tanti risparmiatori, tante famiglie, non solo i grandi investitori, ma anche semplicemente chi ha aperto un conto titoli insieme al proprio conto corrente, chi ha acquistato titoli di Stato, ma anche chi ha deciso di fare un investimento in una polizza o in un fondo di investimento. Perché? Perché cambiano di nuovo le cose rispetto alle regole che erano state introdotte dal cosiddetto superbollo di Tremonti, che colpiva complessivamente solo il deposito titoli. Non c'è stato neanche il tempo di abituarsi a quel tipo di imposta di bollo, la cui rimodulazione appunto era stata introdotta a luglio scorso, che adesso con un colpo di spugna quella formulazione viene cancellata dalle misure di Monti, e adesso dobbiamo impegnarci a studiare queste nuove norme che la sostituiscono e la estendono. Quindi sarà molto importante per tutti adesso fare i conti con la struttura del proprio risparmio e, se necessario, riorganizzarlo un po' per evitare che il prelievo diventi troppo oneroso, non dimenticandoci che tra l'altro da gennaio prossimo, oltre a questa ennesima rimodulazione, parte anche la nuova formulazione della tassazione sulle rendite finanziarie, per cui se prima era un aspetto che veniva trascurato, adesso il peso del fisco sul nostro investimento sarà qualcosa da tenere sotto stretta osservazione. Gianfranco Ursino, collega di Plus 24 del Sole 24 Ore, ciao, bentornato. Buongiorno a tutti. Naturalmente Plus 24 domani dedica un lungo ed articolato approfondimento a questa questione, poi naturalmente abbiamo anche un esperto, Fabio, non perché Gianfranco non lo sia, però abbiamo preso anche il fiscalista, il dottore commercialista Fabio Guffanti, consulente fiscale anche per banche e società fiduciarie. Dottor Guffanti, buongiorno e bentornato. Buongiorno a tutti, grazie per avermi nuovamente invitato. Allora, gli ascoltatori come sempre hanno l'opportunità di interagire con noi, vi ricordo tutte le modalità che peraltro da qualche giorno si sono anche estese. In primo luogo, numero verde 800 24 00 24, ci potete anche scrivere al 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, visto che siamo approdati anche noi su Facebook da un paio di settimane. Se volete, ce l'ho aperto qui davanti, il profilo di Salvadanaio trattino Radio 24, potete scriverci anche da lì e vi risponderemo se ce la faremo in diretta. Diamo un'occhiata anche alla borsa, una borsa che reagisce naturalmente all'accordo tra i paesi dell'Eurozona per un trattato intergovernativo da preparare per marzo con la partecipazione di altri 6 paesi per stringere le corde della disciplina di bilancio con nuove regole, super accordo faticoso raggiunto dopo la maratona notturna che si è conclusa alle 5 di questa mattina, accordo dal quale si chiama fuori il Regno Unito, la Gran Bretagna che non vuole rinunciare alla sua sovranità. E peraltro anche la borsa questa mattina di Londra, così la stavo un po' monitorando, si mostra abbastanza distaccata e disinteressata alle prestazioni delle altre piazze finanziarie. Londra guadagna stamane 1,06%, mentre le altre piazze finanziarie, che in avvio avevano avuto una reazione un po' più brusca rispetto all'accordo notturno, forse poi lo hanno letto meglio, evidentemente si sono accontentate e adesso guadagnano tutte, o quantomeno recuperano un po' del terreno perso in maniera abbastanza dirompente ieri pomeriggio, soprattutto appunto nell'ultima parte della seduta. Parigi più 1,27%, Francoforte più 1,25%, Milano guadagna quasi 2 punti. Sono molto ben impostati tutti i titoli del settore bancario, particolarmente Intesa San Paolo e Unicredit, quindi le big. Intesa più 4,65, Unicredit più 4, bene Buzzi Unicem più 3,79, Fiat Industrial più 3,38, Mediaset più 3, Exor più 3, Monte dei Paschi più 2,79. Quindi anche le banche che ieri sera sono state di nuovo oggetto di una nuova presa di posizione che era attesa dell'EBA, dell'autorità bancaria europea, che ha di nuovo ridisegnato un po' le necessità di ricapitalizzazione degli istituti di credito europei, sollevando la questione anche per le banche italiane, e questa è la risposta delle banche tutte in crescita. Quest'oggi i peggiori, di Assori nemmeno 4, l'Automatica meno 1,5 e Popolare dell'Emilia Romagna meno 1,24. All'accordo europeo ha avuto una reazione un po' più forte il mercato obbligazionario, e ancora una volta lo monitoriamo come, con il differenziale di rendimento fra i titoli italiani a scadenza decennale e quelli tedeschi. In avvio stamattina lo spread è balzato a 466 punti base, adesso viaggia sui 451-452, il rendimento del decennale rimane sopra il 6,5%, per cui sono soglie un po' fastidiose, ma insomma speriamo che non vadano oltre, speriamo di non rivedere almeno i 500 punti base, anche se i 450 non è che siano molto distanti e non è che sia un livello molto soddisfacente per gli investitori. Detto questo, questo è il quadro della borsa. Adesso invece monitoriamo un po' come si evolverà di nuovo la tassazione sui prodotti di risparmio, e soprattutto vediamo qual è l'ennesima riformulazione dell'imposta di bollo sui prodotti di investimento. Sono passati soltanto pochi mesi dall'introduzione del superbollo di Tremonti, inserito nelle manovre finanziarie estive, ma per i risparmiatori è già tempo di tornare a fare i conti con le tasse applicate ai prodotti di investimento. Lo scenario, infatti, cambierà completamente con le nuove norme della manovra Salva Italia, che modificano la tassazione sul risparmio andando a sostituire ed estendere le misure del precedente governo con quella che è già stata battezzata mini patrimoniale. Bisognerà versare all'erario l'1 per 1000 del valore di mercato del proprio patrimonio, e il prelievo si applica a tutti gli strumenti finanziari, categoria nella quale vengono fatti rientrare tutti i prodotti di investimento: azioni, obbligazioni, certificati di deposito, titoli di Stato, derivati, fondi comuni, polizze. Il campo si allarga notevolmente quindi rispetto alle norme precedenti, dato che il superbollo si applicava soltanto al deposito titoli. Restano comunque sempre esclusi i conti deposito e i conti correnti, considerati come semplici strumenti adibiti alla gestione della liquidità, che continueranno a vedersi applicato soltanto il bollo da 34,2 euro. Al risparmiatore non mancano i grattacapi, poiché infatti il bollo si applicherà a ciascuna comunicazione relativa ai prodotti finanziari che si detengono, sarà opportuno fare il punto della situazione e riorganizzare i propri investimenti. Eccoci ritrovati, allora 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande, 349 238 6666 il numero per i vostri messaggi. E i primi che arrivano invece arrivano proprio da Facebook. Marco ci scrive: chiedo subito, io e mia moglie, due conti correnti separati e due dossier titoli separati sulla stessa banca, ci conviene spostare almeno i titoli sul dossier su uno solo, quindi organizzare un solo conto titoli, o chiudere e chiudere l'altro dossier, o no, insomma, così si risparmierebbe qualche bollo? Beh, diciamo che intanto bisogna fare un conteggio molto esatto del patrimonio che entrambi i dossier titoli contengono. Quindi Gianfranco Orsino, intanto si sono un po' complicate le cose per i risparmiatori, oppure rispetto alla formulazione iniziale di Tremonti, che poi magari andiamo a ricordare di nuovo, che comunque ha vissuto in una fase transitoria da settembre a dicembre, per cui molti risparmiatori sono già caduti sotto la rete, sotto la tagliola, diciamo, della formulazione precedente. Ecco, un po' più vantaggiosa la nuova formulazione, oppure si può fare anche una, come dire, più che vantaggiosa, sì, si può fare sicuramente un discorso più che vantaggiosa, sicuramente più semplice, è più semplice e sicuramente anche più logica rispetto al passato. Naturalmente si è cercato di inserire una maggiore progressività, anche se non è proprio perfetta, in quanto con l'introduzione delle due soglie, no, minima e massima di pagamento, perché, come lo ripetiamo, come diceva la scheda prima, naturalmente andranno tassati tutti i titoli, gli strumenti finanziari, diciamo, che uno detiene, non soltanto quelli che obbligatoriamente come prima andavano nel dossier titoli. Difatti prima si doveva discutere, no, questo qui è un prodotto che va o meno sul dossier, esatto, titoli, c'era, e quindi la grande questione del fondo d'investimento. Noi parliamo di prima, però attenzione che è ancora in vigore, fino a dicembre. Esatto. Tutto quello che stiamo dicendo è ancora in vigore. Adesso si sposta tutto a cercare di capire che cos'è un prodotto finanziario o meno, perché naturalmente noi, nell'accezione del termine prodotto, no, cioè, tendiamo a includere tutto. Però se invece dal punto di vista giuridico, e qui naturalmente chiederemo anche qualche dettaglio, naturalmente lì si introduce qualche elemento. Ecco, voglio fare un esempio più banale possibile. Abbiamo, per esempio, le gestioni patrimoniali, no? È un prodotto o un servizio? servizio finanziario, sono dentro o sono fuori? Ecco, su altri aspetti anche di altri prodotti naturalmente potremo addentrarci, come abbiamo fatto su Plus 24 di domani. Cerchiamo prodotto per prodotto a dire se questo prodotto, questo dentro, questo fuori. Esatto. No, è ovviamente un ragionamento assolutamente legittimo, perché magari, e questo l'abbiamo visto soprattutto negli ultimi mesi, molti risparmiatori mantengono il proprio risparmio su prodotti di liquidità pura, quindi il conto di deposito. Questa sicuramente comunque è una chiarificazione che si può fare questo già sì, immediatamente, perché già questo è fuori. Oggi i conti di deposito, diciamo, sono tassati con un'imposta di bollo, che è una propria imposta di bollo, perché fa riferimento a una nota, diciamo, dell'articolo ben precisa, che è diversa da quella degli strumenti finanziari. Quindi sui conti di deposito, che sono anche trattati in maniera diversa rispetto ai conti correnti, facciamo un breve epilogo: i conti di deposito pagano oltre 14, essendo un contratto di deposito che viene fatto con la propria banca, oltre all'imposta che pagano di 14,62 euro all'atto della stipula, del contratto, una tantum, e dopodiché per ogni comunicazione si paga 1,81 euro. Questo non tanto viene percepito dai sottoscrittori, in quanto di solito, visto che fanno risparmiare 1,81 euro a comunicazione, le banche tendono a dirti l'imposta di bollo te la paghiamo noi a livello di promozionale. Quindi sì, tutti associano bene o male nella questa grande il risparmio dei 34,20 euro, che in realtà non è così. Quello va a gravare con un'altra parte della tariffa che regola l'imposta di bollo, i conti correnti. E lì, tanto per rispondere subito anche all'ascoltatore che prima ci ha fatto la domanda, per quanto riguarda i conti correnti non cambia nulla, anche lì rimangono 34,2 euro annui. Però lui ha due situazioni diverse, ha due nella stessa banca, certo, due conti correnti separati, due dossier lì, titoli, evidentemente. Succede? Esatto. Cosa succede? Conviene accorparli, naturalmente tenendo presente anche le intestazioni, lì tutto un discorso che poi va affrontato con la propria banca, però in linea di massima, ipotizzando che ci siano le stesse intestazioni dei due depositi titoli, che succede? C'è la convenienza ad accorparli se ha un capitale di 34, maggiore di 34, diciamo inferiore di 34.000 euro, no? E invece se ha un capitale anche conviene di superiore al 1.200.000 euro. Per quale motivo? Perché oltre a quelle percentuali che per il 2012 la tassa va a colpire lo 0,1% del patrimonio, del valore di mercato, diciamo, dei titoli che ha in portafoglio, hanno stabilito anche una soglia minima e una soglia massima. La soglia minima che comunque tu devi pagare a prescindere dall'importo, diciamo, della valorizzazione del tuo investimento, tu vai comunque a pagare 34,2 euro, e la soglia massima, che è di 1.200 euro annui. Questo qui comporta che la progressività viene meno, soprattutto per le persone meno abbienti, che hanno investito meno di 34.000 euro, e sono tanti che vanno a pagare più dello 0,1 pagando quella imposta fissa di 34,2 certo. euro. E lì, secondo il mio modesto parere, naturalmente è il punto dove si dovrebbe intervenire, perché ci potrebbero scatenare anche delle ripercussioni anche ai danni dello Stato, nel senso che abbiamo dei prodotti, non tanti titoli di Stato, che in questo momento sono nell'occhio del ciclone e offrono dei rendimenti abbastanza elevati, ma per esempio sui buoni fruttiferi postali, lì dove oggi come oggi riconoscono dei rendimenti minimi, se come naturalmente le interpretazioni prevalenti stanno andando, perché essendo un prodotto di investimento vanno tassati anche loro con l'imposta di bollo, diciamo che i bolli alla fine vanno a mangiarsi tutti i rendimenti che questi offrono. A sto punto non ci sarà più la convenienza minima, anzi c'era la corsa allo sportello per disinvestire, perché altrimenti poi ti troverai con un rendimento, abbiamo fatto dei calcoli che domani faremo vedere anche su Plus, magari, che vanno proprio azzerati. Guarda, devo già fare la prima pausa, poi magari facciamo un esempio per capire meglio, certo, questo ragionamento che hai fatto, per capire effettivamente in che circostanza ci potrebbe essere addirittura una corsa alla disinvestimento di determinati prodotti, se appunto l'imposta di bollo andasse ad incidere in maniera così percentualmente importante. Eccoci ritrovati ancora in diretta, stavo alle prese con la voce con la gola che gratta stamattina, chissà se è colpa anche dell'inquinamento di Milano. Detto questo, oggi parliamo della mini patrimoniale che ormai ha preso forma, con le misure del governo Monti che sono state appunto varate domenica scorsa, e quindi dal prossimo anno tutti coloro che hanno un investimento finanziario, un conto titoli, un fondo, una polizza e così via pagheranno allo Stato, al fisco, all'erario l'un per mille del valore di mercato del loro patrimonio, e quindi viene rimodulata di nuovo l'imposta di bollo applicata ai prodotti di investimento. Rimodulata perché? Perché come ricorderete era già intervenuto Tremonti con degli scaglioni appunto che avevano aumentato l'imposta di bollo a seconda del patrimonio detenuto dal risparmiatore, ma soprattutto aveva tenuto fuori da queste misure alcuni prodotti di investimento, per l'appunto fondi di investimento e polizze. Adesso la nuova normativa diventa in qualche maniera, visto che stiamo ormai parlando tutti quanti di equità, forse un po' più equa per certi versi. Devo dire che però genera anche nuova confusione, era anche abbastanza inevitabile. Le aliquote appunto sono diverse, perché si parla di una partenza immediata per certi livelli di patrimonio dell'1 per 1000, e poi dal 2013 questa aliquota salirà all'1,5%. Dottor Fabio Guffanti, il nostro ospite di questa mattina insieme al collega del Sole 24 Ore Plus 24 Gianfranco Ursino, è chiara, come no, dire, scusami Deborah, non volevo allarmare, sì, ma che cosa ho detto? 1,5 per 1000 sempre, non per cento, sennò la gente fatto bene ogni tanto. Questa guerra di cifre il cervello mi è andato in fumo. Dottor Guffanti, si era spaventato anche lei, avevo per non dare cattivi suggerimenti al nostro governo di un ulteriore aumento di aliquota. Sì, guardi, che lavorino su quella sui capitali scudati, che già sarà una norma che farà fatica a passare perché ci sono tutti i vari profili di incostituzionalità che in tanti stanno sollevando, ma se già aumentassero quella noi saremmo tutti più contenti. Quello ci sembra un intervento equo, a prescindere da quello che pensano in molti. Detto questo, dottor Guffanti, 1,5 per 1000 nel 2013, adesso ragioniamo su quello che parte immediatamente dal prossimo anno. Le volevo chiedere, visto che abbiamo sollevato questo tema con Gianfranco Ursino, se ci può dare una definizione chiara del campo di intervento della norma, dei prodotti di investimento che saranno colpiti dalla nuova aliquota. Allora, diciamo che ovviamente bisognerà attendere i necessari decreti attuativi, circolari dell'Agenzia delle Entrate, come sempre, per capire quella che sia il reale pensiero dell'amministrazione finanziaria. Però giustamente, come faceva rilevare il dottor Ursino, c'è un notevole ampliamento della base imponibile, anche perché parlando di strumenti e prodotti finanziari si va a dire un qualche cosa di diverso di quanto è contenuto nel testo unico della finanza come definizione di strumento finanziario, e quindi certamente vengono a essere ricompresi i fondi comuni di investimento, SICAV, che sono uno strumento molto, molto diffuso. Prima dottor Ursino sollevava il dubbio sulle gestioni patrimoniali. Io ritengo che con una nozione così ampia di strumenti e prodotti finanziari, mentre le gestioni patrimoniali erano escluse dall'imposta di bollo in vigore fino al 31 dicembre 2011, quindi quella introdotta da Tremonti a luglio, temo che ci possano rientrare, come anche io, ma ero di questo parere anche sulla vecchia imposta di bollo. Ritengo che anche le operazioni di pronti contro termine rientrino in questa imposta di bollo, al pari dei certificati di deposito, sia che essi siano o meno depositati in dossier titoli, cosa che adesso non è più rilevante, visto che la nuova norma dice che l'imposta si applica anche a quegli strumenti per cui non c'è obbligo di deposito in un dossier. Tra l'altro, no, quello che volevo precisare, anche per essere, come dire, chiari rispetto alla normativa, è che non è che l'imposta di bollo si applica al prodotto di investimento. L'imposta di bollo, per essere proprio precisi, dottor Guffanti, si applica alla comunicazione che l'intermediario fa nei confronti del risparmiatore, quando gli dice: guarda, questo tuo prodotto di investimento in questo trimestre, in questo semestre, in questo anno è andato così, hai ottenuto questi rendimenti. Quindi nel momento in cui l'intermediario invia la comunicazione, è lì che viaggia l'imposta di bollo, giusto? Dunque, sembrerebbe proprio di sì. Io ritengo, perché la norma questo non lo dice, ritengo che si applichi al valore di mercato, sì, dello strumento prodotto finanziario alla data della rendicontazione e non a un valore medio. Questo già è stato detto dall'Agenzia delle Entrate con le circolari relative alla vecchia norma, quindi ritengo che anche per la nuova norma si faccia una fotografia alla fine del periodo di rendicontazione, prendendo i valori di mercato dei singoli strumenti e prodotti finanziari alla data della rendicontazione, che sia 30 settembre, che sia 31 dicembre, che sia 30 giugno, a seconda della rendicontazione pattuita dal cliente con l'intermediario finanziario. Prima di andare alle domande dei nostri ascoltatori, se in un dossier titoli, dottor Guffanti, perché questa era una questione che era stata sollevata anche con la formulazione di Tremonti, c'è in un portafoglio molto articolato che magari ha bot pronti contro termine, fondi di investimento, una polizza che però viaggia fuori delle dossier titoli, adesso questa è un'altra cosa, però chiaramente l'intermediario deve fare la comunicazione si di può inglobare comunque però Deborah, può, in futuro uno lo può fare comunque perché le banche sul dossier titoli ti mettono anche di tutto, ecco, esatto, quindi non è un problema pagare le commissioni, l'imposta di bollo, ci metteranno dentro di tutto, vabbè, questa è una deviazione mia. No, se ci fossero dei prodotti, dottor Guffanti, che non hanno più alcun valore, qualche sera fa ad una cena c'era un mio amico che mi diceva: io ho dei titoli di una società fallita tanti anni fa della quale non sentiamo più neanche parlare, OpenGate, non so come fare perché questo titolo appunto non è più negoziato in borsa, però rimane lì, incaglia il dossier titoli. Adesso un conto che ci sia un dossier titoli con solo questo prodotto di investimento e lì magari con la banca bisognerebbe trovare una soluzione per poterlo chiudere, ma se appunto dovesse essere conteggiato anche ai fini dell'applicazione della nuova imposta di bollo, come bisogna fare? Allora, diciamo che nel caso dei titoli cosiddetti in default, cioè titoli di società fallite o in concordato, amministrazione straordinaria, che sia comunque titoli che hanno un valore prossimo allo zero, in questa nuova normativa su imposta di bollo vedo un vantaggio, perché quella emanata a luglio dava come criterio principale di valutazione il valore nominale. Quindi lei capisce che se io malauguratamente avessi sottoscritto un'obbligazione Parmalat o un'obbligazione Cirio, queste obbligazioni Parmalat e Cirio avevano un valore nominale di 100 e quindi io nel computo della mia imposta di bollo quell'obbligazione valeva 100. Oggi fortunatamente, o meglio dal 1 gennaio 2012 con la nuova normativa sull'imposta di bollo, facendo riferimento al valore di mercato come criterio principale e non più al valore nominale, diciamo che chi ha in portafoglio titoli in default come suo amico con le azioni dell'OpenGate, o può valere per le azioni della Mandelli, che è un'altra società quotata depennata dal listino però tuttora presente, o per le obbligazioni Cirio, Parmalat, le Seat pagine gialle, così tanto per parlare di un caso anche recente, adesso non c'è una riorganizzazione del debito, i titoli sono precipitati da tempo. Ecco, assolutamente, piuttosto che per chi ha delle obbligazioni greche, argentine, che sia, questi titoli andranno al loro valore di mercato, quindi bisognerà fare in modo di avere una valutazione del titolo in maniera tale di dire: il valore di mercato di questi titoli oggi è 0, 1, 2, 3 e non più 100 valore nominale. Volevo aggiungere. Sì, mi scusi, dottor Guffanti. Mi perdoni tanto perché volevo su questo aspetto di stare molto attenti, in quanto le banche, come ci hanno testimoniato alcuni lettori in questi giorni, non sapendo su questi titoli qual è il valore di mercato, perché non c'è mercato, quindi esatto, in alcuni casi è zero perché è andato già a default, però in alcuni casi valgono 20, valgono 30, valgono 40 rispetto ai 100 di valore nominale a cui noi le abbiamo acquistati. Che cosa fanno? Sulla comunicazione mettono 100, non sapendo il valore di mercato da mettere. E quindi a questo punto di stare molto attenti, perché bisogna fare molto attenzione che sia effettivamente il valore di mercato, se no ti vanno a tassare adesso con la nuova versione del bollo, che indubbiamente è più equa, passando al valore di mercato e non all'anacronistico valore in cui tu, per quanto riguarda i bond, li hai acquistati, no? Molto probabilmente in collocamento a 100, se valgono 20 naturalmente adesso ti tasseranno per 20 e non per 100, che è il valore è vero, ormai tanto non fa voglio storia. Dire alla banca che cosa interessa fare un calcolo corretto dei prodotti che non hanno più alcun valore, tanto l'imposta di bollo non è che se la devono trattenere, devono passare allo Stato. mercato, per cui che si impegnino a fare questa operazione di equità per i propri clienti, che sicuramente ci fanno più bella figura. Sentiamoci qualche ascoltatore, Gianfranco, poi vediamo di chiarire anche gli altri aspetti che ci sono rimasti fuori, perché non abbiamo ancora dato qualche esempio pratico per capire effettivamente come inciderà nei nostri portafogli, anzi negli altri portafogli, perché il mio è proprio secco, è successo la carta di credito, questa nuova rimodulazione appunto dell'imposta di bollo. Andiamo a sentire Lorenzo della provincia di Vicenza. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno a tutti, subito la mia domanda. Bravo, è immediatamente. Allora, leggo testualmente la letterina che mi manda la banca del gruppo Banco Popolare ogni 6 mesi, estratto al 30/06/2011 del deposito titoli custodia numero, non ve lo dico, sotto c'è un'altra riga con la descrizione del titolo che è un fondo comune di investimento, quantità, quotazione, controvalore. Beh certo Lorenzo, intanto rispetto alla comunicazione del 30 giugno credo che non ci possa essere niente rispetto a tutte le novità che sono arrivate dopo, sia vabbè comunque... No, il mio quesito era questo, al 31 dicembre di quest'anno, il fatto che io abbia questo fondo comune di investimento in un deposito titoli custodia, vuol dire che devo pagare qualcosa di più di 17,10 euro del solito, perché superano i 50.000 euro. Allora aspetti lì, facciamo una cosa, mandiamo subito il traffico Gianfranco, così facciamo due calcoli per Lorenzo, per quello che è possibile fare, soprattutto perché il fondo di investimento ha diverse cosette da raccontare, soprattutto una rimodulazione della tassazione che è partita da luglio e che riguarda la questione del maturato piuttosto che del realizzato, tutta un'ulteriore cosa che ci complica ancora la vita. Tra poco. Allora, risolviamo subito il caso del nostro ascoltatore di Vicenza, di Lorenzo. Allora, fondo di investimento, per chiarire molto il conteggio per il nostro ascoltatore, lui ci ha parlato di una cifra superiore a 50.000 euro, quindi fondo di investimento custodito in un dossier titoli, anche se le banche non erano obbligate a farlo, custodire il fondo di investimento nel dossier titoli, in questo caso questa banca ha scelto di farlo, per un importo superiore a 50.000 euro, intanto dal prossimo anno, al posto di 34,20 euro annuali, ne pagherà Gianfranco 50. 50 se parliamo di 50.000 euro. Facciamo che poi conto nel 2013 rotondo. Non dobbiamo dire sempre che diventeranno 75, perché l'imposta passerà allo 0,15%, mm-hmm. No? Oppure quell'1,5 per mille, che è la stessa, ecco, cosa. Ora, proprio cosa. Questo esempio per l'ascoltatore potrebbe essere di aiuto a noi, a tutti gli ascoltatori, per capire bene che cosa cambia. Il fondo comune di investimento era un prodotto che oggi come oggi non c'era l'obbligatorietà di metterlo sul deposito titoli. Le banche, molte, ma non tutte, lo facevano per una questione loro semplificativa. Naturalmente la rivisitazione iniziale, che aveva iniziale, diciamo, perché è stata questa seconda di parte del ministro Tremonti a giugno, tutto quello che c'era sul deposito titoli andava tassato. Quindi i fondi comuni, pur non essendo, cioè si poteva benissimo evitare di metterli sul deposito titoli, perché così il nostro ascoltatore non veniva tassato, soprattutto lui che ha solo quello. Ed è una cosa che gli consiglio di fare in questi pochi giorni che rimangono da qui a fine dell'anno, perché è ancora in vigore fino alla fine dell'anno la vecchia normativa, diciamo quella attuale, però di Tremonti, in quanto se tira via il fondo, se la banca tira via il fondo comune di investimento, come può fare dal dossier titoli, lui non paga l'imposta di bollo, nemmeno quella quota parte semestrale, mi sembra di aver capito, che adesso ancora gli spetta di 17,1 euro. Cosa succede? Tutti questi ragionamenti che stiamo facendo decadono con la nuova impostazione, che dico io anche più logica, no, da parte del, e semplifica un po' la vita a lungo andare, no? Sia alle banche che ai clienti. Cosa succede? Che a prescindere se il fondo comune di investimento sia dentro o fuori dal deposito titoli, il fondo comune di investimento, essendo un prodotto di investimento, ok, quello va tassato proporzionalmente con le nuove aliquote. Mamma mia, beh, diciamo che passeremo le vacanze di Natale, come dire, studiandole nel dettaglio per capire come incideranno e se ci conviene fare anche tra Natale e Capodanno una bella chiacchierata col direttore di banca per così razionalizzare i dossier titoli di famiglia, se ce ne sono molti, sperando appunto che molte famiglie ancora possano permettersi di accantonare qualcosa per risparmiare, perché poi il grande tema è anche questo, Gianfranco. Il caso del sottoscrittore è proprio emblematico. Allora, avendo solo un fondo comune di investimento, perché la banca me lo appoggia su dossier titoli facendomi pagare non soltanto l'imposta di bollo, ma anche il costo per la tenuta a conto, diciamo, del dossier, che in questo caso incassa la banca. Infatti. Non avendo necessità di farlo, per quale motivo? Lorenzo, vada dalla banca e gli faccia tutto il ragionamento che le ha fatto Gianfranco adesso. Vorrei sentire invece Benito da Roma per un attimo, perché ha strumenti di investimento appunto di diverso tipo e vorrebbe capire se appunto ricade nella nuova normativa fiscale. Benito, buongiorno. Buongiorno a lei, dottoressa Rosciani. Io così diciamo vi ascolto sempre, ma comunque adesso mi sento parte interessata. Ho un quantitativo di denaro in fondi di liquidità e a questo punto gradirei sapere come vengono considerati questi, perché non sono titoli in deposito, sono semplicemente una somma che io avevo lasciato l'anno scorso perché mi riservavo di fare degli acquisti, degli investimenti, e poi sono rimasti lì a morire. Ora in questo caso di che morte dovrò morire? Certo, allora Benito, aspetti lì, vado dal dottor Guffanti. Allora anche qui dobbiamo ritornare al ragionamento fatto inizialmente, dottor Guffanti, e quindi ridefinire un po' il perimetro d'azione della nuova normativa. Secondo lei per Benito adesso cambierà qualcosa? Probabilmente sì. Probabilmente sì, però vorrei capire bene cosa intende per fondo di liquidità. Esatto, cioè, Benito, se intende se è tutto sul conto corrente, fondo comune monetario o se viceversa intende tutto un sul conto corrente di deposito vincolato. Ecco. Benito, ci può... non è vincolato, tant'è che... Ma è tutto sul conto corrente, quindi 100.000 euro sul conto corrente? Non sono sul conto corrente, li ho lasciati in banca su fondi di liquidità, nel senso che io potrei servirmene quando voglio e dentro una settimana mi viene consegnata la... È un fondo comune? È un fondo comune, quindi l'investimento monetario. Monetario, sì. Allora, la nuova norma sull'imposta di bollo non distingue tra fondi comuni, azionari, bilanciati, solo monetari, cioè parla in genere di strumenti e prodotti finanziari, quindi anche il fondo comune di investimento prettamente monetario che sia investito anche tutto e solo in titoli di Stato italiani rientra comunque nella base imponibile dell'1 per mille o 0,1% che dir si voglia. Sì. Però volevo aggiungere, proprio questo, perché i due casi sono veramente emblematici. Benito, a differenza del precedente ascoltatore, che mi perdoni non ricordo il nome, anche lui solo fondi comuni. In questo caso, come ha detto lui, la banca non li aveva depositati, non li ha depositati ancora oggi su un deposito titoli, perché non c'è necessità. Oggi Benito non paga, fino a 31/12 non pagherà l'imposta di bollo, perché i fondi comuni erano fuori, ok? Per lui cambia quindi la situazione, perché dal 1 di gennaio naturalmente il fondo comune, pur essendo fuori, pagherà, come ci siamo detti, l'imposta di bollo. Allora, sì, benissimo. Andiamo adesso ad Ettore da Cuneo. Ettore, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qui. Buongiorno. Grazie per avermi dato la possibilità di intervenire. Grazie a lei. Io abito in un piccolo paesino in provincia di Cuneo e faccio il promotore finanziario. E quindi mi devo occupare di questo per lavoro. E quindi allora, deve spiegarlo a tutti i suoi clienti adesso. Sì, ma parzialmente l'avevo già spiegato, dovrò ricominciare da capo perché è cambiata... Dopo averci capito qualcosa, Ettore, guardi, è nelle nostre stesse condizioni, ci dica. No, ecco, la cosa che volevo dire io è questa: io farei un appello proprio alla vostra radio e a tutte le persone di buona volontà, perché parlando di una manovra equa, non dovrebbe avere il limite massimo di 1.200 euro, perché una persona che ha 1 milione di euro investiti pagherà 1.000 euro. Ma una persona che ha 50 milioni pagherà 1.000 euro lo stesso. Lo so, Ettore, ci stavo pensando anche io questa mattina. Detto questo, noi solleviamo queste osservazioni e speriamo che naturalmente ci ascoltino. So che probabilmente anche Gianfranco solleverà questo tema su Plus 24. Per adesso, Ettore, noi ci dobbiamo limitare alle persone che magari hanno un risparmio molto più modesto e che ci ascoltano, ci dobbiamo limitare a spiegare che cosa cambierà. Detto questo, lei aveva una domanda anche più pratica? No, volevo solo su questo, perché è una questione di giustizia, proprio per quelle persone che hanno poco. E infatti, Ettore, grazie, grazie mille, e appunto sicuramente il tema più gettonato rispetto ai commenti di questa manovra finanziaria è proprio il tema dell'equità. Che... Sì, che come ho definito prima è imperfetta, ma soprattutto verso, diciamo, oltre come sottolineava l'altro ascoltatore, naturalmente che chi si trova con capitali superiori al milione di euro continua a pagare sempre 1200 euro massimo annui sulla singola comunicazione. In una percentuale assolutamente ridicola. Il problema è che hanno tolto anche quella, seppur minima, naturalmente, soglia franchigia, anche inferiore, così, diciamo, che era di 1000 euro in precedenza. Nella prima versione del decreto c'era stato accolto con favore perché la portava a 5000 euro. Quindi chi aveva nella prima stesura della norma che abbiamo potuto visionare dei capitali investiti inferiori a 5000 euro non pagava nulla. Invece dopo questo è sparito dall'ultima, è quella che è stata portata, che forse sarebbe il caso di introdurla e di portarla anche a 10.000 euro, perché chi ha, naturalmente abbiamo detto, meno di 34.000 euro pagherà veramente in proporzione di più di chi naturalmente si ritroverà ad avere dei capitali ben più consistenti, ma anche ai 100 milioni di euro. Quindi anche perché, come ci dicevamo, per chi ha investito pochi soldi, questa imposta di bollo naturalmente è destinata anche a un po' a vanificare tutti gli interessi, anche in alcuni casi, alcune tipologie di prodotti di investimento che naturalmente ti portano ad azzerare poi effettivamente i tuoi introiti. Antonio D'Alessandria, rapidissimo. Buongiorno, velocissimo. Alcune banche consentono una sorta di dossier titoli che non è soggetto a imposta di bollo per contenere unicamente fondi di investimento, il tutto senza avere un conto corrente d'appoggio. La mia domanda è: come si fa a pagare l'imposta? Antonio, aspetti lì, faccio fare la domanda anche a Saverio da Palermo, così poi li rispondiamo ad entrambi rapidamente. Saverio, rapido, grazie. Sì, velocissimo. Volevo sapere soltanto due cose. Io ho un fondo comune che praticamente la banca non me lo ha fatto mettere sul deposito titoli. Quindi vorrei sapere se su questo pago. Mi è sembrato di capire di dal 2012 sì, adesso no. Quindi dal 2012 sì, anche se non è su un conto titoli. Sì, non pagherà l'imposta di bollo a 34,20, pagherà praticamente come valore percentuale l'1 per 1000 sul valore appunto del mercato che avrà il suo prodotto. Lo tenga, e anche se adesso non c'è più necessità, diciamo, di fare questa distinzione per l'imposta di bollo, quindi lo tenga fuori e chiedendo, come l'ascoltatore, il primo ascoltatore che ha detto che ce l'ha su un conto di appoggio, perché almeno su questi conti di appoggio che sono fatti apposta e sono gratuiti, il conto deposito vero e proprio, il deposito titoli vero e proprio, invece quello lì invece ha dei costi anche soltanto di imposta di bollo, certo, ma anche di commissionali, conto, che almeno questo si continuano a risparmiare. Guffanti, concedo a lei l'ultima parte della trasmissione, che è praticamente di un minuto circa. Le chiedo appunto se dobbiamo dare un'ulteriore consulenza ad Antonio D'Alessandria, che ha questi prodotti di investimento che lui dice non ha però un conto corrente d'appoggio. Sì, è quello che in gergo si chiamano dossier tecnici. Direi che vale quello che il dottor Ursino ha ovviamente detto. Io volevo solo aggiungere una piccola cosa che non era stata ancora toccata, ma che reputo che sia molto importante, e cioè che da questa rimodulazione dell'imposta potrebbe derivare qualche beneficio per quelle persone che detengono BTP. Dobbiamo chiudere, Guffanti, in 10 secondi. Allora, che semplicemente essendo da 2012 tassata a prezzo di mercato, potrebbe essere più conveniente la nuova normativa rispetto alla vecchia. Credo 8 secondi di esserci stato detto. Bravissimo, le concedo tutta una puntata la prossima settimana o entro l'ultimo dell'anno. Grazie a Gianfranco Ursino, Fabio Guffanti per essere stati con noi, con Salvadanaio ci sentiamo lunedì. Grazie a Marco Lombardo, Fabio Cantadori, buona giornata a tutti.